In qualche modo le organizzazioni, gli avvocati, gli attivisti da anni ci raccontavano del sovrautilizzo, dell'abuso soprattutto di psicofarmaci all'interno dei centri, e noi abbiamo provato a quantificare questo abuso chiedendo i dati di spesa alle aziende sanitarie locali dove insistevano appunto i centri di permanenza per il rimpatrio, che ricordiamo in Italia in questo momento sono 9 perché Torino è stato chiuso circa un mese fa a seguito delle proteste dei trattenuti. Ebbene, dai dati che abbiamo ottenuto è emerso, appunto si è concretizzato anche dal punto di vista numerico questo sovrautilizzo, perché abbiamo provato a confrontare la spesa di psicofarmaci interna ai CPR con la spesa in psicofarmaci di un servizio locale che si occupa di persone straniere senza regolare permesso di soggiorno su una fascia d'età sovrapponibile a quella dei trattenuti del CPR, quindi erano due popolazioni simili. Ebbene, se nel centro di Vercelli, nel nord del Piemonte, si spendeva lo 0,6% in psicofarmaci, al Corelli di Milano, vi do qualche esempio, si spende il 64%, al Brunelletti di Torino il 44%, a Roma il 51%. Cosa significa? Significa che all'interno dei centri si spende, nel caso di Milano per esempio, 160 volte in più di quello che si spende a Vercelli. Un dato a nostro avviso significativo, motivo per cui abbiamo intitolato la copertina del numero di Altre Economie che trovate sul nostro sito "Rinchiusi e sedati", proprio perché questa spesa eccessiva l'abbiamo un po' tradotta nel sovrautilizzo di psicofarmaci per rendere in qualche modo sopportabile un ambiente che è estremamente degradato, in cui le persone passano i loro giorni senza fare alcuna attività nell'attesa di essere rimpatriate. Un rimpatrio che poi, come sappiamo, avviene in meno del 50% dei casi. Quindi immaginiamoci anche la sofferenza psicologica di chi è trattenuto una settimana, due settimane, un mese, due mesi, senza poter fare alcuna attività, insomma. Questo riaccende i riflettori sul tema della detenzione amministrativa, che ricordiamo è una sorta di anzi è da tutti gli effetti un carcere, però senza avere compiuto reati penali. Sì, il ministro Matteo Piantedosi, che all'interno del decreto licenziato dopo i fatti di Cutro ha previsto delle procedure semplificate per aprire nuove strutture, ne vorrebbe una per regione, li ha definiti luoghi non gradevoli. Ebbene, questi dati accendono una luce un po' più pesante sul tema di un luogo non gradevole, perché il tema grosso qua è il rispetto del diritto alla salute per persone, come dicevi tu, che tendenzialmente entrano nei CPR per la mancanza di un regolare permesso di soggiorno, ovviamente sottolineando il fatto che anche se la persona entra con precedenti penali, il tema è che il diritto alla salute va garantito a chiunque, e soprattutto in quei luoghi molto complessi in qualche modo per i motivi che ci dicevamo prima. Ma aggiungo solo un dato, perché non è solo il quantitativo di spesa problematico. Noi all'interno del pezzo andiamo poi anche a cercare di analizzare la tipologia di farmaci che vengono utilizzati. Ebbene, vi è un'ampia spesa in antipsicotici e antiepilettici. Quindi la domanda che ci siamo fatti e a cui proviamo a rispondere nella nostra inchiesta è: ma una persona con una patologia psichiatrica può entrare in un luogo come il CPR? E soprattutto, entra con una patologia psichiatrica o in qualche modo quel farmaco, che però ha effetti collaterali molto forti perché viene utilizzato per patologie psichiatriche, viene utilizzato al di fuori di quello che è previsto dalla foglio illustrativo, insomma dalla ricetta, e quindi viene utilizzato come sedativo. Sono queste due le opzioni. In entrambi i casi, se leggerete il pezzo lo capirete più nel dettaglio, noi arriviamo a dire che vengono utilizzati tendenzialmente come sedativi. Se ci dovesse essere una presa in carico adeguata, questa non c'è, perché i dati che ci hanno fornito alcune prefetture ci raccontano di visite psichiatriche bassissime rispetto alla spesa in antipsicotici e antiepilettici. Quindi in qualunque delle due strade noi arriviamo a ricostruire appunto una salute che viene calpestata all'interno dei centri. Però queste ultime cose che stai dicendo aprono il tema del consenso, cioè le persone a cui vengono somministrati questi farmaci sono consapevoli? Noi inseriamo una testimonianza di un operatore che ha lavorato all'interno di un CPR, che diceva che che appunto raccontava che i più giovani non sapevano neanche che cosa fosse il Rivotril, che è risaputamente insomma il più utilizzato all'interno dei centri. Questa testimonianza conferma quanto, come dicevo prima, organizzazioni, avvocati, attivisti avevano già raccontato in passato. Il punto, diciamo, è che all'interno dei centri non ci sono, come all'interno delle strutture carcerarie, degli istituti penitenziari, medici del Servizio Sanitario Nazionale, ma tendenzialmente i medici sono assunti dall'ente gestore. E come osserva Nicola Cocco all'interno dell'inchiesta, che è un medico esperto di trattenimento, queste persone, spesso non specialisti, non riescono a garantire un'adeguata presa in carico per queste persone, ricordandoci sempre, immaginandoci, cioè ammesso che una persona con una patologia psichiatrica possa entrare in un centro, una presa in carico all'interno di, a Torino si dorme in 7 in 35 metri quadri, cioè questo dato già ci racconta di come in qualche modo il tema dell'ingresso con patologie gravi è fortemente problematico. È lo stesso Ministero degli Interni, in un regolamento pubblicato a maggio 2022 sull'idoneità, insomma, al trattenimento nei CPR, che va a sottolineare come le patologie psichiatriche dovrebbero essere causa di esclusione dall'ingresso nei CPR. E quindi com'è possibile che il Ministero da un lato dice quelle persone lì non possono entrare all'interno dei centri perché in qualche modo non sono adeguati per la loro condizione, e poi abbiamo una spesa così alta in antipsicotici e antiepilettici?